Ebbene, siete addormentati, siete? Bobo! Vai, con cuoma adesso. Ah, il lugariello, quando fai così ti temo io a te. No! Tu sai, ma Rattari, questo è il baracchino normale, come mi ascolti? Bene, benissimo, chiaro. Ti ascolto, ti russo. È così? Peggiorato? No, lo so, prova che non stavo guardando. Prova prima il primo passaggio che hai fatto e poi il secondo. Allora, questo qua è il primo passaggio, 1, 2, 3 con un baracchino omologato, è alimentato da 5A, 1, 2, 3, prova, e questo qua è il secondo passaggio, 1, 2, 3, prova, avanti. Forse il secondo mi sa. Io vado giù a leggermi, non c'ho lo smitter a lancetta, capito? Quello che mi rompe le palle di questo baracchino è che non c'ha il LED, che non c'ha lo smitter normale. Comunque il secondo sembrava più forte. Mi interessa il segnale, la radio si distorce, allora così un passaggio, la radio mi interessa, lo so che sono a fondo scala, tu sei a fondo scala qua. Perché io ho il frequentimetro con i LED e dall'altra parte c'è lo smitter, capito? E si è a fondo scala qua, non mi interessa a me segnare, la radio, questa qua è un passaggio e questa qua è un altro passaggio, 1, 2, 3, prova, vai. Ma manco si nota, Luca, non si nota, non cambia molto la radio. Chiamati chi è? Ah, è compresa? Sì. Sì, ho detto, ti ho fatto male. Sì. Allora, ma ciao, ho detto, come sto facendo male? Vabbè, ho detto, segnale 8, buongiorno comunque. Questo qua, ho detto, è il Mobicom, quello che c'ha non so, questa 1 watt, 5 watt, non lo so. È così, normale, così è normale. Va bene? Ok, dai. Lo senti Antonio? Natali. La voglia che lo sento. Se non sento Antonio bisogna che ci butti tutto. No, l'ascolto bene, ciao. Antonio, c'è a momenti, ci sono momenti di vari saturazione. No, se mi spostato, non so. Andava, là. Allora stamattina Natali, non potevo avere qualcuno di noi, invece c'erano camionisti qua al 10 e praticamente è rimasto meravigliato. Strano che c'è qualcuno a baracchino. Perché ci stiamo ripopolando piano piano. Non credo. Ma quello lì marcato ci è quell'apparecchio, quel mobico. No, non lo so, qua sono guarda, a me non c'è scritto, non so, Antonio, ci sei? Questi baracchini sono marcati CE, no? I baracchini, il Mubico, ma è marcato CE. Dov'è il marcato CE? Non ce l'ha. No, tanto Natali, se non sono marcati CE, te lo sequestrano. Sì, Natali, parla con Antonio. Antu, marcato CE nella targhetta dell'omologazione, ci deve essere il marchio CE. Ce l'ha quel baracchino, guarda a vedere. Non c'entra niente, non servono più a niente. A me mi hanno sequestrato tutto. Ho dovuto comprare questo barattolo perché proprio per quello, se no non potevo parlare. Mi hanno multato e sequestrato tutto perché disturbo, capito? E disturbo anche con questo CE, solo che si devono cambiare l'antenna TV adesso. Il mio non era omologato. Che lo devi buttare, non lo puoi disattivare, attaccato all'antenna di Nirusicustrejan. Cazzo, mi viene Nirusicustrejan di burro l'alimentatore a me. Meno male che questo è marcato CE, se no ti rimettevo un alimentatore da 30 ampere. Informati che è uscita da poco la legge, da quando, 2 anni fa mi sembra che è uscita, da quando avevo fatto la concessione io. Solo che io non ero informato e mi ho tenuto quello pensando di essere in regola, invece no, anche il Rosmeto mi hanno sequestrato. Se non è marcato CE, tutto quello che non è marcato CE te lo sequestrano, a chi non vuoi di lì. Se lo trovano attaccato all'antenna e non è marcato CE, te lo sequestrano. Così hanno fatto a me ed è così. La nuova legge, non c'è nulla da fare, là, deve avere chi sono omologato, marcato CE, come questo che ho io. Anche se c'è un microfono che in questo piccolo mio non riesco a tenerlo in mano, che è troppo piccolo. Mi viene anche male a modulare. O glielo cambio il microfono, ma non so se glielo posso cambiare neanche. Comunque guarda a vedere se quel Mubicom è marcato CE nella targhetta di omologazione, così me lo fai sapere. Perché questo non c'ha lo smister, mi c'ha quello a barrette digitale, ce l'ha sia in modulazione che in ricezione. Però boh, lo so che dirti, no? Viene male per dare i segnali. Non so se è giusto, boh. Scusate, mi sto sentendo dei ferri. E ogni volta vado a piazzare un'antenna è un casino, adesso sono tutto pulito, dove ci metto le cose, il capo e tutte queste cose. Adesso devo sistemare tutte le rondelle, viti, coso, tasselle, che ballate. Nella targhetta non leggi niente, non c'è scritto niente nella targhetta, ci deve essere il marchio CE, ci deve essere Luca. Ha detto che c'è la targhetta con l'omologazione, non c'è altro. Tra la parola di Sant'Unio. Se non c'è CE non andava. Se no io uno di quelli me l'avrei procurato anche a seconda mano, perché tanto nuovi non ne fanno. Se no, chi se non mi piace a chi fare un cosa a letti. È bello come apparecchio, ma non so se è giusto, boh. Ma quale? Questo nostro? No, questo mio. Questo mio c'ha, aspetta, il frequenzimetro, i LED e poi a destra c'ha lo smitter, poi c'ha il volume, vabbè il volume ci vuole per forza, lo squelci, l'RFG e il MicGain. Questo è un Intec MB40, è bello, un milione come baracchino. E ti posso dire, non piglia manco un goccio. Manco io, non mi piglia. È bellissimo come baracchino questo qui. Solo che non mi piace perché non c'è lo smitter normale. Capito? Solo quello è. Ma vabbè, mi ritengo così, perché questo intanto devo tenere. È inutile che mi pide un baracchino di chi rimane, da cui non è omologato e me ne usi più freccia, mi vanno a dare e mi mettono 600 euro di vista, no, non fanno. Mi dà un vizio, e boh. Non so cosa dirti Natalia, alla fine sì, Antonio te l'ha detto, che lui male più bravo, ha più esperienza di me, di sicuro. Non lo so, questo qua ripeto ha la targhettina dietro dell'omologato, omologato lo utilizza la persona. Sì, lo so, però è praticamente come quello che mi hanno sequestrato a me, nel senso, se non ha il marchio CE, questo c'ha la targhetta dietro, no? Ed è proprio marcato CE, capito? Nell'omologazione ce l'ha. Se no è così, se lo trovano attaccato all'antenna ti fottono. Non lo so, c'è un dottoriano a prenderlo da Madrid. Buona carina, non lo so cosa dirti, sono sincero. Non lo so. Sì, io mi stavo informando per vedere se era come questo qui, ma penso che pochi me ne sono marcati CE. Praticamente io ho anche la lista di quelli che sono omologati, praticamente marcati CE qua. Questi qua sono quelli poco qua, Natale, che mi hanno chiesto, strano che ci sia qualcuno a palazzino. Strano. Noi già stiamo entrando, non è che non abbiamo mollato, dai, diciamo così. Attenzione, Luca! Ciao, avanti, buongiorno, rientrando? Ciao Luca, Caparoggia, dai, siamo qua di rientro, abbiamo scaricato e siamo qua. Dove c'è la Volvo, lo sai? Positivo, la mia compagna di Natalino ti rilancio, avanti Natalino, ascolti, adesso non mi ricordo il nominativo, poi me lo ripeti, dai. Che sono smemorato, avanti Natalino. Cappa, già li sento, Bassini, ma già li sento, ma io sono in zona bassa e ho l'antenna anche bassa, è per quello che soffro un po' la ricezione io. Non so se loro mi ascoltano, perché io più di 4 watt non posso avere. Papa Natalino, compagnia di Gabriele, quanto è stato cordialista? Ciao Gabriele, ben sentito, dai. Anche se Bassino ti ascolto. Caparo, che zona sei tu? Forse sei lontano da qua. Non lo so dove sei tu, io sono qua a Sassa, in zona bassa, e ho l'antenna molto bassa nel tetto. E quello è, c'è poca ricezione. Con la Volvo. E abbiamo direzione tunnel, direzione sud. Scappa, sono abbastanza lontano da te, dai. Ok, buon rientro allora, buon tutto. E a risentirci, Gabriele. Ben sentito, mi ha fatto piacere ascoltarti. Natalino Alfa 1 da questa parte. Ciao. Certo, Natalino, mi senti? Sì, certo che ti sento. Senti bene, com'è? Sono di uscita. C'ho poca ricezione, io c'ho un'antenina piccola. Anche io sono messo male in ricezione qua. Mi arrivi un Santiago 7, dai. Santiago 7, già è buono. Perché io ho l'antenna molto bassa sul tetto e quindi soffro un po' la ricezione. Positivo. Avanti Stefano. Beh Natalino, io ti super saluto. Ci aggiorniamo alle migliori. Vai Stefano. Ciao Natalino, buon tutto. Ce la vediamo domani, che noi stessa ora passiamo, che andiamo in discarica a caricare e poi rientriamo a sud. Guarda un po', che abbasso un po', Stefano e Gabriele, c'è sempre Luca, meglio mi ascoltate? Luca, se sei una potenza, così va bene. Questo qua è un baracchino del camionari, modificato. Ho capito, no, noi ce l'abbiamo lisci lisci. Guarda, ce l'ho da tempo, ma non ho mai... L'ho avuto anche la motopompa, però no... Vabbè dai, prima già ci sentivano su 5, adesso non c'è più nessuno con questo tipo di baracchino, là. Ti sto perdendo, dai. Vediamo un po' Gabriele, o là, Stefano, avanti. No, io ero Stefano, ti lascio a Gabriele. Ah, positivo, là, Stefano e Gabriele. Avanti Gabriele. Prova Luca, se mi ascolti, io ho l'antenna piccola, hai visto sulla barallicca. Ti ascolto, dai. Arrivo leggermente più forte di radio di Stefano. Perché come uscita è buona, è la ricezione che pecca la mia antenna. Purtroppo un baracchino alla fine si conta, non conta molto, quello che conta l'antenna, se non è antenna non vai da nessuna parte, capito? Positivo, comunque la modulazione è abbastanza positiva, mi dici? Sì, la radio è bella, dai, per essere un baracchino tranquillo, dai, senza niente è abbastanza buona. Va bene, dai Luca, io ti saluto, ti lancio a Stefano Barracuda, avanti Stefano. Squillate perché Gesù di Soprano L'ho copiato Stefano, Gabriele. Mi stanno andando oltre la situazione lì. Ciao Gabriele e Stefano, se mi ascoltate, Natalino Alfa 1. Alle prossime. Ok, dai, ciao Stefano, ciao Gabriele, buon rientro, buon tutto alle prossime, dai. Ciao, ciao, spazia lì. Mi ha quasi positivo, dai, ciao, ciao. Noi siamo qua, nel Sassarese siamo qua, ciao, alla prossima. Capa, ciao. Così è Natalino. Dobbiamo entrare pure a Eddie, se no non va casino. Speriamo che ci siano anche i grandi modulatori, Bisogna farli venire qua, su questo canale, Dio boh. Aspetta un attimo, Natalino, sta ascoltando un messaggio di Marina. Ebbene Natali che sei? Attento, attento mio hermano se va a scrisciare la Sardinia di là. Ai. Ai cucche. Ai, Giannini. Ebbene già. Hai visto quel foglio che ti ho mandato? Via, la grande. Sempre così siamo, con questo cazzo di coronavirus non può passare. Adesso sta aumentando in Spagna, te l'immagini. Per andare bene deve sparire da tutti, da tutto il mondo, perché c'è uno che viene qua e lo butta già addosso, è intorno a lui. Sognate se ne sta, se che a casa come stiamo noi, io alla fine sono uscito solo a fare la spesa e basta. Io sono sceso in cortina a mettere in moto la macchina che era 2 mesi ferma. E adesso mi sono accorto che ci vuole, bisogna fare il tagliato. Esatto, già, i soldi vanno e vengono, così vieni. A me si viaggio, chi si pochi viaggio, di anni non tornano. Quanti tornano, ma le dai. Ma il fatto che... Cassetta del bagno, del water, da sotto perde, non si capisce da, perché sono di quelle che sono attaccate al water, capito? Mi sa che bisogna cambiare tutto. Anche lì la spesa. Ha detto Gianmario, l'idrolo e commento che ci sono dei bulloni, a volte si mollano e siccome va in castro. Può essere quello che si siano mollati i bulloni e che adesso dice vediamo, li mettiamo lui. Invece mi ha telefonato che ci ha preso la tosse e la freddone. E quindi sta aspettando che ribassi. Va. E infatti c'è la propagazione dalla Spagna. Là. C'è la propagazione dalla Spagna, ma erano molto lontani. Là. Ciao Lupo Grigio, dove sei? Bassino, bassino, sì. Avanti Luca. Attento mio hermano de Vascucia, l'isola della Sardinia, adelante per un comprendido. Attento, attento mio hermano de Vascucia, l'isola della Sardinia, adelante. Li sento, ma sono io che sto facendo chiamata, e non sono gli spagnoli. Ciao Nicola, buongiorno. No, già, se non ti rispondo è che mi è arrivato un LCD che devo riparare l'iPhone 7, un iPhone 6. E quindi te ne stai andando? No, c'ho il telefono, no, sto solo controllando il poco che mi ha arrivato. Cava cava. Nicola, siccome ci sono degli spagnoli però è sottofondo, molto lontani, ho provato a far chiamata io, però non rispondono perché deve essere non mi sento. No, certamente no, perché sino avanti ci ho parlato con la Spagna, non c'è problema. Solo che se sono lontani come propagazione è difficile. Madrid! Sì, sono arrivato molto più lontano. Ho parlato con l'Inghilterra l'altro giorno. KK. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza. Sul canale 10 c'è qualcuno? Non sta piantando nessuno, chissà la cosa. Se successo non l'ho compreso. Di quanti rintanati ci sono? Sicuramente se l'ho preso un esaurimento pensando al coronavirus e non stanno più entrando. Poi stanno sempre rimandando, facendo, buh. Adesso la Spagna sta aumentando come casi di contagio. Stiamo diminuendo noi, sta aumentando la Spagna. E io ho visto gente passeggiare anche senza mascherine qua sotto casa, capito? Senza mascherine, ragazzini. Via Goizia, non in Via Lettretto. Ah, Via Lettretto dove c'era prima, ho capito, là. No, no, pensiamo a quella di Via Goizia, che c'è una più sua. Ho capito, poco prima dell'Ariston, da KK. Quello più grande che c'hanno è Corte Santa Maria. Lo so. Anche alla Conad comunque è cara la frutta e verdura, costa un bel. È di prima scelta. Via Pascoli, stai dicendo. È un chiosco di frutta e verdura, però vanno loro col camion a Cagliari a prenderla, vanno nel cagliaritano, tutta roba sarda. Bene, bene, se c'è qualcuno già entra, non c'è bisogno di chiamarlo, no, non c'è bisogno di stare, se vogliono entrare già entra. E fai così, dai, ci sentiamo dopo, io vado a farmi un giro per se c'è propaganda per un po' di 10. Già. E io sono qua, dai, io sto aspettando questa ragazza che mi porti il telefono dalla figlia, così glielo sistemo. Sta uscendo da casa per te, la bicicletta è qua. No, abita dove qua, si abita qua giù già, ma non è che viene nel magazzino, no? Poco fa, due ragazzi senza maschera, senza nulla, vivendo, cantando, camminando in cabina. Che lasciali fare già, poi quando si ammalo chi se ne frega? Io ho paura che sto calcando. La gente è convinta già, lasciali convincere, tanto sono io li chiamo bimbo minchia questi qua. Io faccio un passo a mano. è meglio così, da, piano piano. Piano piano già, adesso mi fa. Dai, se vuoi andare a farti un giro nei canali, boh, fai, dimmi dove c'è qualcosa che vengo pure io, dai, cerca. No, non sono il profeta, sono Luca. Ciao Nicola, buongiorno. Aspetta un attimo. Chi è che fischia? La galla di maniaca Giula, chi c'è? Buongiorno. Gianni? Sì, ah. E beh, non c'è niente? Chi è entrato? Ma non lo so. Avanti chi è entrato, non ho capito chi è. Però facciamo da stanza. Però c'è comunque, anche qua. Sotto sempre gli spagnoli, parlando. Solo qua. Ho girato, l'hai dato i canali, in FM e cose non c'è. Ciao Gianfra, come va? Sì, come per tutti. Prigioniero, ma prigioniero che popolare, almeno se non altro, dato che qua c'è spazio, quindi il diretto può fare. Ma probabilmente è meglio di un appartamento in condominio. Vabbè, anche io lo posso fare. C'è il cortile giù, ma c'è due giù, cortile, anche cammini dentro. Non so, arrivano anche 7-8, non so. E da te, ma da me no. Io non ho parlato con Londra io, però cioè, deve esserci la propagazione giusta, se no niente. E questo che è oggi? Oggi è bello, allegro sì. Se ti allegra Dio l'aiuta. Ma già lo sai che lo si può uscire. Si sta già a fare guai. Ma con la mente oppure dal vero? La pagava. E cosa fai subito? Lavoro a casa. E almeno un po' di strada te la fai, dai. Io sono dovuto scendere in cortile, ho dato giù il cane, ma fuori non ci sono uscito. Ho portato in cortile, ho fatto le sempliciattine e... Luca Gianfranco. Perché scusa, se tu li metti... Ciao, buongiorno anche a te, Eugenio. Ma se tu li metti un decoder di quelli di ultima generazione, funziona, cosa non va bene, chi te lo dice? Ah, non c'ha la presa, perché i nuovi modem hanno la presa HDMI? No, io c'ho, il mio ce l'ha, vabbè, il mio è, boh, fa di 5-6 anni, boh, 7 anni, sempre al plasma, un Panasonic, ma c'ha HDMI, c'ha USB, c'ha SCART, c'ha audio, video, tutto. Niente, ma tanto che anche per quello ci vorrà il decoder, dai. Comunque c'è anche Gianfranco, buongiorno anche a te, avanti, ripeti Gianfranco. Fate che stacco l'eco, sennò poi dà fastidio, dai. Ecco qua, scusate. Lo metto così. No? Avanti, avanti Gianfranco. Ma come ne hai bugato questo ecco? Ciao, ciao a tutti i conti di nuovo. Io sento in mezzo agli spagnoli perché stanno sempre arrivando più. Riprendi Claudio, buongiorno. Beh, vai, fai un sino lasso. Lassalo, io abbasso il volume. Abbasso delle mutande anche. Buongiorno, buongiorno. Io sento qualcuno l'altro giorno, stavo lamentando per questo ecco. Non è necessario, quando si fa salotto è meglio parlare normali. Va bene, va bene. Buongiorno a tutti, dai. Però rimango in quel Rix, perché se io trattami adesso, raccomando dei vigili, finalmente mi hanno fatto il permesso per andare in campagna, quindi... sto pensando di andarmene e trasferirmi fino a quando non riprende la normalità. Quindi se non mi sentite sono in letargo. Avanti Gianni. Ciao Cla, arregati che cos'è che dà, un antennino così fusticcio, tanto per parlare. Ma ne ho da fare lì, Gianni, ne ho da fare. Ce ne va a tagliare, c'è un sacco di cose da mettere a posto. Arrivando già al caldo, devo scalonare la vasca da bagno e ce n'è da fare, ce n'è. Com'è te che restu, eh? Come va il microfono normale del Galaxy? Da salotto, va benissimo. Da salito quando va vedi. Anche tu quando va vedi con lei così, più alto di Luca. Ah, non è vero, dai. L'ho pulito, non c'aveva nulla, era solo da pulire. L'ho soffiato un po' di aria nel circuito e poi gli ho dato lo spray per contatto e ha funzionato su. Ma non la radio, il microfono? No, dentro la radio. Quindi stai usando il Galaxy adesso? Non lo sa. Oh, Gianni è parito, dove si è andato a finire Gianni? Sta chiamando. Eugenio ti sta chiamando, non lo senti? No, io l'ho sempre a tutti, anche gli spagnoli che ci sono sotto. Ogni tanto lo portano. E lui che non mi sente perché c'è di mezzo motore, adesso lo sto chiamando, quindi sa, mi piace farlo a casa, ma sta tutto a tempo. Oh, Claudio. Eia. Cos'è con lo sbagliato attacco? Ho toccato quello dei chilometri. Per quello sono sbagliato. Praticamente questo qui è collegato dello Galaxy. È leggero, dai. Boga nero, boga, vai a traiesia, è meglio senza ecco. Così, guarda. Una grande, molto meglio, più pulita, più ordinata. Ecco, attaccalo quando te ne vai sui 45 e quando andate sui 45 qua nel 10 usiamo i baracchini sul secco, se no abbiamo fastidio agli altri. Da fare la legge. Ma scusa, allora lo so, avrei le tutte le ragioni del mondo, ma se gli altri sono aumentati, che cazzo si ne ha futti? Sto abbigliato con me, mamma me l'ha fottenuta, voi tratta pure lo megafone, capito brobe? Mi tratta pure un megafone, se no mi ce l'ho qua dietro l'Alan 48 nella vetrinetta, del basamento della vetrinetta. Sono poco attaccato e ti faccio giorno, quindi a me me l'ha fottenuta. Ho sentito, mentre ascoltavo qualcuno che addirittura era di 20 anni ma comunque ecco, ieri cosa stavate facendo? Io manco c'ero ieri, non sono entrato, perché c'avevo gente. E così ho sentito quelli che sono dicendo, ma la puttana c'è, ma di lei. No, ma mica, non me la sto prendendo con nessuno, ci mancherebbe. Ma dà fastidio anche l'amplificato di giù, no, non dà fastidio solo l'eco, capito qua? Tutto qua. E vabbè, comunque non c'è problema. Si può anche fare, poi, quando uno ha voglia di usarlo, si sposta, tipo Gianni che ce l'ha, io che ce l'ho, e gli altri che ce l'hanno, si fanno le prove, via. Voi rimanete qua a fare salotto e noi ci spostiamo a fare delle prove in un altro canale. Cos'è da fastidio amplificato? Dio che amplificato. Ah, quello di Marina, quello che c'ha la Marina, troppo alto, è così, è colà, cazzo, non puoi stare sempre rigurendi, no? Perché devi abbassare, perché quello arriva più basso e poi solleva, regola così, regola colà, tu lo stai sempre regolando con questo microfono. Mia Antonio, mia Antonio, facciamo i bravi. Yeah. Ehi, bravi siamo Antonio, e più bravi siamo e più ce la mettono nel diretto, là, vabbè, non c'è problema, no. Non voglio fare polemiche, non mi interessa. Non è il momento di fare polemiche. Avanti Gianni, comunque riprendi Cla. Antonio Riserva, vai. Ciao Antonio. Ascolta Antonio, c'ho un interrogativo da farti. Ma tu apparati, ne aggiusti? Ma tu Claudio di Gianni. Ciao Antonio, buonasera. Lanciato a me, quindi riprendi quando ci hai interrogato. Non mi fate arrivare. Luca, la gente a mamma ha fottenuta. Fate quello che vi piace, io quello che ho sentito vi sto dicendo, poi se magari la gente non ha voglia di vedere in faccia le cose, allora avanti Gianni, cos'è che stavi dicendo? Gianni, allora devi ripigliare o ripigli? Beh, Fede Vergoglio, esci di mini tutti dal guru, QRT, ciao. Claudio, cosa è successo? Perché? Buongiorno. Claudio! Beh, chi è? Antonio! No, cosa è successo? Che non stavo ascoltando, acceso adesso. Nulla, cosa invece è successo? Assolutamente niente. A proposito, tanti saluti a tutti da Stefano. Dice, perché ieri era al telefono e mi ha detto salutami a tutti tranne i cuocuomani, quindi Natalia, a te niente. E andrò a ciappolarti un attimo, grazie. Antonio, a me ti sta chiamando Gianni. Ciao Natalia. Mattino 14. Vabbè, riprendete, Gianfra, riprendi, dai. Io rimango in QRT. Ciao a tutti, buona giornata, divertitevi, leccatevi e abbracciatevi, ciao. Non posso riprendere, sono al lavoro, riprendete voi. Uno è passato, là. Già siamo qua, là, siamo qua. Siamo un po' nella merda, comunque, già siamo qua. Dobbiamo stare qua. Ma non ti ha risposto Antonio Riserva? No. Ciao Natali. Già, mi sa che Antonio era impegnato da poco fa. È entrato un attimo a salutarci, poi stava facendo roba, non lo so. Mi sa che è un po' impegnato. E ha già il telefono lì. Ciao, già. Ma qualcosa lì. Stamattina non c'ero a casa. Ero giù a mettere in moto la macchina quando ti ho chiamato. Allora già, scusa Natali, allora già la macchina tua è nuova, non c'è bisogno, se rimane due, tre, allora il freddo ti butta giù la batteria, se c'è troppo freddo te la butta giù, se non c'è bisogno, la macchina tua è nuova già. Sì, vabbè, ma non c'è, è meglio sempre prevenire che curare. Vai Natali. Caffa, io pure l'ho presa la macchina, perché mi ho preso le pensioni, mi ho preso stamattina. E quindi ho preso la macchina, dopo andate via 25 capelli e barrate il banco, ma se ne tieni carava, ritirata da un conto e poi tiranno fini da zia. Ma qua rimane fermato due impiegati di voce mi danno. E allora sono fermato a chi sono di via Pulcino e me l'ho preso le pensioni. Pagate gli hanno andata lì a pensione. Signore, se tu la prendi dal banco ma se te la danno. Se invece tu devi entrare nell'ufficio e a taglioni, e chissà quanto mi toccava a me. Poi mia moglie finisce con la S, cioè, quindi l'ultima di tutti. Adesso come giustificazione per andare a riposte la taglione. Aspetta, sto facendo una domanda a Natalino, cazzo è poco c'è veloce, minchia. Ho detto, ma le hanno pagate oggi oppure c'era già da quando? Perché io sono andato, io a me me la creditavo in banca. Beh, non lo so, in banca, alle poste le hanno pagate comunque. Non lo so se in banca è arrivata, hai capito cos'è il discorso? Tu in banca, se tu devi entrare all'ufficio a scaglione uguale, come alle poste. Non lo so se da fuori te la danno, a me da fuori me l'hanno data. No, non siamo entrati, non sono mai entrato io in banca a fare operazioni. Io in banca vado solo se vuoi prendere che te la scegli, ma è da un bel che non ci va, e basta. C'ho il banco, ma te l'altra carta. Quindi, vabbè, controllo. Non sono andato, non ho controllato, non so niente. Pensavo che mi accreditassero il primo, invece sicuramente stanno facendo per la roba del appunto in ordine alfabetico, li stanno andando prima. Vabbè, non me ne ha fatti nulla. Riprendi Gianni. Oggi, ma sì, non ti sento oggi. Gianni, cosa stavi dicendo? Manco un ascolto, dai. Oh, riprendi, dimmi cosa mi stavi dicendo. Catarina, mamma è sana di cognome, cioè con la S, la può ritirare? Da fuori solo, se no lo primo, o l'uno o lui. Se devi entrare in ufficio, devi è a scaglioni. Solo dal banco ma te la puoi ritirare oggi. E ora ci ho ritirato, da paura però. Vabbè, mi sa che mi festa, ma molta gente c'era. Mio cugino vera la vita. Ha dovuto fare la fila e poi arriva a Rossetti, buco. Infatti mi ha giocato da un paio di guanti per non toccare il banco, ma mi ha dimenticato oggi i guanti. Ma quando vado a ritirarmi il reddito di cittadinanza mi rimetto in tasca, capito? Per non toccare il banco, ma ti metti un paio di qua, che non si sa mai. Luca, cos'è? Este è tuo padre? Sì, Sanna, sì. Allora devi andare il primo aprile. Este è il primo aprile. Da dentro però, non da fuori. Da dentro, per forza, non da fuori, da dentro, certo. Ah, ma c'è il libretto. Ma se non ha il banco posto deve entrare dentro, no? Deve entrare dentro con il giorno della S e il primo aprile. Sì, c'è la banco apposta, il libretto, sì, la carta, come il banco. La salavano, sì. Vai, col banco ma ti tira a ritiro, che la giovane tirati io ci mangiamo. E così, se c'è il banco apposta, puoi andare anche adesso, vai e se li bini, perché da oggi paga la parola per te. E a mamma, a me non so se adesso chiedo se c'è qualche spiccioletto, aspetta, se no ci vado domani direttamente. Se al banco posta vuoi andare a due viaggi, vuoi andare oggi, vuoi andare a tenere i figli. Era solamente per chi non ha il banco posta, che va, deve andare con il prezzo all'interno. Allora c'è la cosa, c'è il discorso iniziale di cognome, capito? La S è il primo di aprile. Beh, finita la legge di vacanzino, ma si può approfittare in certa base oggi? Ma Mastro Giù, buongiorno. Ciao Natali, ciao. Salutoni, no, anche se era un po' di maletta, scusa, io le accutelle, ma sono qua dentro a fare. Ad abbondare anche maletta. Non c'era bisogno. Claudio. Amarezza, avevo un casino, no, non c'è l'amarezza. Allora ci ho ragione io. C'era passata la sera a poco e stanno facendo un sacco di lì. Qua tutti i giorni c'è igienizzazione, folletti, contro folletti, acqua calda, acqua fredda. No. Rimanga in ascolto, ci sentiamo dopo, dai. E l'amarezza vero. Oh, assolutamente. Tutto sotto controllo, Giulio, tutto a posto. Ok, vabbè, dai, meglio così. Allora, Eugenio, avanti, a te la parabola, e poi fai girare. Va bene, giusto di fare qui, d'accordo. A te, Luca. Luca, non c'è Gianni. Gianni è quel Rick, ci ha detto. Gianni è quel Rick, bravo, è allora che è rimasto. Tu, io e Natalino. Natalino! C'è già un piano. Siamo qui agli arresti domiciliari. Oggi è la prima volta dopo un mese che ho preso la macchina. A chi dovevi andare a ritirarmi la pensione? Da voi si è risaputo di andare a fare a mio bolsino, perché quello di via 25 aprile era rotto il banco, ma non funzionava. Vabbè, dai, ho capito. Ci sentiamo stasera. Ciao a tutti, chiudo. Ci sentiamo stasera. Ciao Giulio, ciao. Vabbè, me la chiudo pure io, tanto se non c'è nessuno, cosa siamo qua a fare? Mi rimetto al computer, dai. Alle prossime. Ciao a tutti. Guardati per me. Hola. No, Natalia, c'è casino qua, stanno con la spirapolvere, perché sennò avrei il flash. Aspettate un attimo, c'è Gianni, era in quel Rix, riprendi con Gianni. Ciao, grazie a lei di gente. Ciao Giulio, c'è Eugenio. Avete dimenticato a Gianfranco? E quello X già Gianfranco ha detto, sta facendo cose al computer. Ho detto Natali, come l'hai giustificato il fatto che sei andato a ritirare i soldi? Perché devo andare in banca, che mi è scaduto il banco? Devo fare operazioni bancarie, scrivi. Scrivi la via dove c'è la banca, dove stai andando, e scrivi che devi fare operazioni bancarie. Se devi entrare a Trento, non puoi scrivere il banco, ma se no. Agi Basenzia, operazioni bancarie, scrivi. Ma io volevo sapere se è una una buona scusante il fatto di andare a fare il banco, perché se si può fare, perché nelle voci non c'è scritto, c'è scritto solo visite e tutte queste cose qua. No, io dovevo andare a pigliare in pensione, e a me mi firmavano, come mai lei sta facendo, perché sono senza soldi e devo prendermi la pensione, quella misera pensione che mi danno, cosa mi vuole dire? Sono potuto sentire l'abilità e sto andando a Roma come a ritirarmi la pensione. Sì, già, già. Sì, già. Ma si può andare, sì, ma stai scherzando? Io vado via per l'ufficio, ma non mi sono messo di fare al banco, ma... E cosa ti possiamo dire? E cazzo senza denaro rimaniamo burro, buonanotte. Come ti mangi senza denaro? Non lo so. Se tu non la rinnovi quella carta, come fai a fare la presa? Senza soldi rimane. No, no, anch'io, ma è meglio usare il banco. Non so mai che le transazioni, poi il casino, no, no, no. No, però io ho chiesto ai vigili urbani, certo, ci può andare in banca. Scusa, cazzo, se non devi fare un pagamento non può andare in banca. E i soldi non li devi prendere. Al banco ma si può andare. È chiaro che non puoi andare al banco ma degli punti, no? Però se Natalino in quella zona e deve andare al banco ma devi via 25 aprile, può andare, qual è il problema? E anche tu, da casa tua, se devi andare alla banca, non so dove sia, puoi andare tranquillamente. È chiaro, scrivilo e aggiungilo come voce, lo aggiungi a penna, manca, lo fai vedere, tieni la ricevuta nel caso ti fermano, se fai qualche operazione, se fai qualche prelievo, tieni la documentazione, però puoi andare. Ma io devo andare per forza alla centrale, non in una succursale, nella San Paruimi che rimane a Serra Secca. Devo andare per forza lì perché è lì che ho fatto il banco e mi arrivo lì. La Banca Intesa devi andare, via Carlo Felice. Esatto. Dove vado io? Dove ce l'ho io? Io ce l'ho in Piazza Italia, però tutte le operazioni tramite blocchetto di assegno devi prendere in Piazza Italia. Però tutte le operazioni le faccio via Carlo Felice, puoi andare tranquillamente, non hai nessun problema, vai tranquillo, scrivilo però nell'autocertificazione, lo aggiungi a penna, tra parentesi, ci scrivi banca, ok? E conservi l'operazione che hai fatto, ti daranno una ricevuta, ti danno qualcosa, a caso ti fermano, lì da dove sta arrivando, dalla Banca Intesa di via Carlo Felice, questa è la mia documentazione, come sono entrato in banca, non c'è nessun problema, cioè, ma stai scherzando. Tu dichiari che stai partendo da casa tua e dopo l'indirizzo della banca, via Carlo Felice, poi sotto nelle motivazioni scrivi banca e non scrivi altro. Giustamente quando finisci di fare quelle operazioni che devi fare ti danno una ricevuta e la leghi a quel foglio, molto ci vuole. Cosa dire di Manisse? Sta di là, paese. Sta di là, non so, ma a parte che devo utilizzare la cosa, che poi il seguito mi serve, i soldi finiscono. Già, stai attento però, se vai in macchina con un altro non ti devi sedere davanti, ti devi sedere dietro con la mascherina se ti accompagna qualcuno, capito? Perché se ti fermano che sei davanti sono dolori, No, guido io, non importa. Allora, se guidi tu con la tua macchina, autocertificazione, come ti ha detto Natalino, nelle motivazioni metti da via Valdetta a via Carlo Felice e poi metti banca, ok? E nessuno ti dice niente. Tieni in allegato le ricevute della documentazione bancaria, certo, non devi far vedere a loro i cazzi tuoi, però li tieni in allegato nel caso ti richiedano e tu sei a posto, non hai nessun problema, vai tranquillo, sono andato io. Io faccio facendomi il banco ma di nuovo tirandomi su, perché così almeno non posso andare. No, mi sei sbasciato di battere per le acqua dalla cassetta. Sì. Non c'è nessun problema. Il mio bombolaio c'ha il coso appresso del banco. Capito? Quello che usano al rifornitore. Lui che è nella colonnina, tu lo vedi, ma quello nella colonnina di Lomone, io sono portatile, se lo porta appresso ce l'ha, perché molti purtroppo mi ha spiegato appunto Antonio che non hanno contatto. bancomat e quindi pagano col bancomat, non c'è nessun problema, ormai il bancomat è obbligatorio già, quindi non ce n'è problema. Scusate un attimino, che stai su una vomita che si domanda? Buduio, ha solo un virus dei rigani, anche il mio ieri. Un rigurgito, cazzo, ha vomitato tutte le crocchette. Riprendi Natali, dai, fai girare che c'è Eugenio. Ci deve essere anche Luca, insomma. Yeah, sì. Eugenio! Dove è andato Eugenio? Ma è Giulio sparito, dove è andato? Giulio ha fatto QRT, stavo chiudendo anch'io e fa. È che dopo è entrato Gianni. No, io qua a Natali stanno passando la speratore, fa un sacco di casino, col microfono fa amplificato, si sente tutto, capito? Anche se l'ho abbassato. Però fa un sacco di casino e quindi non potevo riprendere perché non sentivo altro niente. Ma e cosa è successo Giulio? Perché è andato via? Non ho telefonato. Non lo so, adesso che facciamo a quelle sì che ci sentivamo stasera. E allora è arrivato magari qualcuno, volevo riuscire a fare qualcosa. Va bene, Luca, cosa stai facendo? Tu Luca diciamo. Ascolta, trappa di la Lecce a Mazzano Bizzo, eh? Vabbè, ti ha rilanciato anche Natalino, ora ci risendi. Ci metti per un gababumbuglione, duro, rumore della nave, e la Lecce vai. Sì, ah, Natalino, questo sì che è un vero cuocuomane. Adesso ne aggiungiamo un altro di cuocuomane. Ma questo è il genere, è cuocuomane, bro. Sono i tossici con gli spiccioli arrotolati in tasca, no Natalino? Allora. Così li chiama Natalino, cuocuomani, capito? Cuocuomani, lo sai, ma sa se noi non abbiamo i tossici, abbiamo i cuocuomani. Sì, sì, cuocuomane sei tu, perché c'hai sempre il rumore della nave nelle orecchie, capito? E non sei attento. Allora Taiso ha vomitato, anche Filippo ieri. Guarda che cado pure Rosori, alla Canendi, cazzo come apri poggiolo, siccori calzone, pare di spiaggia, e non c'è Cristo di farlo entrare dentro. Sta seduto Mazzana alla Canendi e poi sta tutto il giorno addormentato. Bello è quel cane, curareto. Magari ha mangiato qualcosa e l'ha fatto male. No, ogni tanto ce l'ha questa cosa, sto mangiando una volta al giorno, mi faccio 50 grammi di crocchette e mangio. No, un rigurgito, è molto soggetto lui a questi, perché c'ha la digestione molto molto lenta, capito? Evidentemente gli ho dato tardi ieri, quindi lui è malato per la frutta. Quando stiamo mangiando noi, mia moglie era sempre la mela, invece gli è rimasta la mela, gli ha fatto un po' di acidità la mela e quindi ha rigurgitato. No, le crocchette non è. Le crocchette non le ha vomitate. Saliva vomita, rigurgito, no, come succede a noi a volte, capito? Rigurgito. No, come mettiamo vigia, durante il coronavirus, è sempre dormito, grazie. Stamattina ho dovuto svegliare per portarlo. Perché io mi alzo, siccome oramai il caffè non mi va di più nessuno, in basso lo chiuso e me lo sto facendo a casa. Quindi mentre mi faccio il caffè mi preparo, abboiando, e beh, andiamo, tabaide, abbasciatore a Rugabbo, e si dorme, ha detto ciucciù, quindi, non so, per poi ho fumato una sigaretta, ho aspettato, alla fine sono andato giù tutto il cuzzolato, ah te ne besci o non te ne besci, si è alzato, si è tutto stiracchiato, e si è fatto mettere in guinzaglia, ma un quarto d'ora mi ha fatto la pipì, popò, due bisciattine, due annusate, aiuto torra, è assato a Robugioro, bucato, a Rosori. Ma Romacco, che sei all'Ande dei Caraibi, proprio. Invece questo è un rompicoglione, mamma mia. No, Natalia è bravo, è bravo. Poi adesso abbiamo fatto la puntura, è già passato un mese, e praticamente dura un anno, la sterilizzazione maschile, no? È una puntura che si fa alla schiena. E quindi è moscio moscio, prima era sempre il viaggiendi, il zicchendi, si faceva, si masturbava da solo, capito, si era mazzente, si era uscito anche il sangue dalla picchiriola. E qui dopo la traventura ha detto, ascolta, fai qualche cosa, mi ha detto, posta, no, te la faccio, ho detto, fai chi ci ti piace, 120 euro pagato, mi ha detto Gianni. di Faglia e dura un anno, almeno è più tranquillo, molto più pacato, più sereno, capito? Sino era sempre a cavallo, con la goccia allucinante. E quindi dorme molto di più, è molto più tranquillo, non tira come prima, cammina piano piano, insomma, è per quello che, se no è un demonio, lui, andare, lui deve sempre andare, solo che adesso con questa restrizione non si può andare, e quindi lo mollo qua nel giardino, adesso, prima quando era in calore non lo mollavo perché si buttava anche alle persone a trombare le gambe. Sì, vuoi a trombare anche via. Te la metti. E che andate a vedere lo sportello subito a dritto, brum! È troppo peso su gatto. No, lui è amante delle macchine, è lì. Lui è amante delle macchine, lui con Mario in macchina, nel cofano dietro, fusato, in piedi. Quando lo porto io è un comico, perché io lo porto davanti, no, che c'è sedi in pelle che me li buca con le unghie. Allora tiro il sedile indietro, lui sta seduto al tappeto. Quando cammino però, sale il sedile davanti, le apre finestrino e buca, lunga buvura, e pare che do tequila, chi la televisione, le apre, quando cammini con lo vento, le va dando in tutti, è troppo comico. Tutti ce lo guardano da lontano. Con che si varri, che si muove da una parte all'altra, per carità, guarda. E il tuo, Eugè, sta bene? Sì, sempre ce l'hai. Ma è l'occhio, è bello. Mi piace un bacio di un cane. Molto difficile da gestire, diciamo, mi sarebbe piaciuto, molto bello, mi piace, ce l'aveva il mio genero, gli è morto poverino, adesso c'è il Pesa Canario che è un cavallo, più Manuele Valano, capito? No, ma che Filippo Campagna, Campagna potrebbe cacciarlo chiuso, non sapete tirare su, anche a casa, come c'è gente nel pianerottolo, lui va subito alla porta, capito? Non fa entrare nessuno, e il cane deve essere così. Deve essere così, devo essere dormito, anche quello di Gianni, solo che se tu per esempio, vabbè, io l'ho conosciuto un po' più piccolo quello di Gianni, però è molto, molto tranquillo, nel senso che se c'è lui che apre la porta, lui dice, lui è un mio amico, viene, ti annusa, con me con yoga, bulu, con la ballina, però se non ti conosce anche quello di Gianni è cattivo, non ti fa entrare. Doppio, pulito hai, cos'è successo? Ha mangiato un po' di erba e sicuramente si stava purificando, ma non ne ha fatto nemmeno un po', ha buttato un pochino sul letto di Marco, e Marco ma che sì, fa momentate sul letto, non è pulisco, mi sono dovuto andare io a togliergli una cosa, un computetto e E anche Filippo ieri ha rigurgitato, è normale per i molossi, già no? Hanno una digestione molto molto lenta, capito? Non è un problema, ti preoccupa, non succede niente. E prendi il tattali che vado a bermi un goccio d'acqua. Fa un attimo, sto facendo un lavoretto al computer qua e lo posso riprendere, dai. Ci sentiamo stasera al limite, sono in ascolto, però devo fare una cosa qui al computer. Claudio, a te quando ti scade la carta a casa te la mandano? Claudio? Vabbè, Eugenio? No, li faccio a Bernaccia. Dove? No, io non c'ero perché purtroppo il cane ha vomitato e sono andato a pulire. Non c'ero, non ero all'apparato. Anche io se faccio finta di picchiare col bastone a Marco, a mio figlio, morde il bastone e poi mi ringhia anche a me, non vuole. Io faccio la finta, lo apposta, alzati dal letto, corri, prendo il bastone. non sopportano che tu metta le mani addosso. Ti danno una specie di lezione, nel senso non la toccare, lasciala stare, capito? Qual è il dog argentino? Ma quei dog argentini sono... Io pensavo che fossero bravi, invece, cavolo, ho sentito dire che sono molto... sono tra le razze più pericolose. C'era una ragazza a Portottone, c'è un dog argentino bianco, che lei è tutta tatuata, si è tatuata anche il cane, che me l'ha fatto vedere. Ma da lì io mi sono avvicinato e io non l'ho toccato, l'ho accarezzato, niente, non mi ha fatto niente, ma io pensavo che fosse bravo, capito? Ma con le persone magari no. Beh, normale, se tocchi la padrona, anche il mio, se tocchi a me, ti si gira, ti si mette così che c'è. Anche il mio, che è un morso, è lo stesso, però è un po' il mio. Se io poi viene gente, la carezza, vi faccio capire che sono amici, il saltatore si mette a giocare con lo stesso clan. E invece incontravo tipo il bombolaio con... Quando ce l'hai avuto il bombolaio con la mascherina, ti pensi l'umano? Sì, perché sono cani da guardia, mi danno ragione. Cani da guardia facevo bene. Permettere di entrare in casa mia, cercando. Già entro, vieni a pigliarmi qui all'ascensore. A Natalino per dire va anche all'ascensore a prendere, perché sa che la ricuccia. Lui arriva, lui va all'ascensore a aspettare. E piglia lui di arco, non si capisce come fa a fare. E tu visto all'ascensore, lui a Marco, ma non tanti di traverso, ma il cane morso. Non tanti di traverso. Io me la sono fatta da poco prima di operarmi. Sono andato con un paio di amici e amiche. Siamo andati al quadrato, dare al caffè. Ho già cantato la mazzibocca. No, mamma mia, con la panna sopra. Ui, ui, ui. Già, prova crema cioccolato. I punti vendita di crema cioccolato e poi me ne dai il riposo. Mi siete sovramodulati, clamo. Ho detto prova crema cioccolato, aspetta che arrivo là, ho detto prova crema cioccolato, i punti di crema cioccolato, le chiede la cioccolata alla panna, madre di Dio sempre strada. Dov'è crema cioccolato, che se non ce l'ho presente qua? E vabbè, ma noi ci vuole venire di Sassari, adesso in questo, però sto facendo anche a prodotto, c'è via Mendola, in via, cazzo me l'ammento, comunque ce ne tre o quattro a Sassari, mi ha detto mia figlia. Bobo, ti ho capito, dai, ovviamente ti ho capito, quello che fa angolo, che si vede la vetrata trasparente e si vede la gente. Ehi, ehi, è positivo. Datemi un minuto che devo fare una cosa alla TV, allo smart TV, devo attaccare il wifi, un secondo, voglio fare una prova. Riprendi, oggi c'è anche Natalino, ci è rimasto qua, dai, riprendete e arrivo subito. Come la fai? Ah, già pronta, quella è già pronta, dai. No, la fanno con la macchetta del caffè, la scaldano con quella e poi mettono la panna sopra quella, la panna basta abita di chissà chef di quella, li metti quella. Se non è buona chissà gravata. Lascia perdere. Fa la fila. Buona ritta, Guardi, stavo per staccare la panna e passargliela addosso. Fagli slap slap. Io scusa, mi è caduto nulla e ne che cosa. È una fantasia, no? Ma una bella ragazza. Qui è di quelle simpatiche, non è di chi si grida. È una bellissima ragazza ed è anche simpatica. Allora signore, mia moglie ha detto che siamo dei furri. No, non siamo dei furri. noi notiamo le cose e le discutiamo, non è che siamo furci. E oggi ci vieni a al caffè, io dico che non ti muovi più dentro. Di meglio non era quello che faceva l'appa. Perché non me lo sto attaccando? Guarda adesso. Perché se c'è il microfono normale abituato col microfono amplificato non me lo sto attaccando alla bocca, capito? Sì, è giusta la modulazione. Possiamo rimediare così, guarda, va bene. Ma lascia la normale già. Eia. Perché l'altro magari dà problemi, non lo so, c'è per il microfono che stava dando problemi o che cosa. Poi va bene, questo qui è fatto apposta per uscire forte anche col microfono normale. Sono quegli apparecchi che sono fatti apposta. Cosa c'è? L'ecco? No, perché c'ha diversi tastini, ho sbagliato il tasto, ho usato quello dell'NB e non l'ho tolto l'ecco, adesso non ci deve essere più. Cava cava. C'è una radio fantastica già. Cosa hai detto, Eugenio? Ehi, il Galassi Saturn ecco, quello che non funzionava. E hanno bisogno di ogni tanto di dare un po' di pulizia anche ai potenziometri eccetera eccetera, ti ho dato un po' di spray. Ma quello che c'ho io si asciuga subito, come lo sputi si asciuga subito. Beh, io quando lo apro l'apparecchio mica li lascio l'aspirante a cacca, non gioco manco. Diciamo che c'è un trasformatore che può tenere un po' di corrente all'interno, ma non è niente di che. Come ha fatto Natalino che l'ha schiacciato, e la valvola. Natalino, finalmente la valvola, così ha fatto anche qualcosa staccato. Cazzo, defibrillato, ma. Mi ha fatto inventare i capelli dritti. Ha detto se hai ancora problemi con quelli vicini in casa, perché è detto che stai modulando tutti i giorni e quindi non dovresti avere più problemi. No, ce li ho lo stesso, ce li ho lo stesso, solo che si devono cambiare l'antenna adesso, perché io sono in regola e posso parlare. Così mi hanno detto quelli che sono addetti a queste cose e così ti sto dicendo io. Milano di qui c'era tutto la prima voce, infatti mi ho dovuto comprare questo barattolo che non riesco manco a modulare, se ti fidi, perché ero abituato al microfono da tavolo, e questo qui è piccolino piccolino il microfono e viene così in mare, mamma mia. Vabbè, questo è e questo ci dobbiamo tenere. E ha detto che gli hanno sequestrato tutto descomposto, perché era marchiata, era omologato quello che aveva, però non era marchiato C, quindi gli hanno sequestrato tutto. Adesso ha comprato un apparato che è marchiato C, però c'ha un microfono piccolino che non riesce manco a modulare, che lui era abituato a quello da tavolo, capito? E io sto qua. È un problema se non sono marcati C, tanto per dire, ma anche in macchina te lo puoi mettere, se non te ne usi questo, non si può venire a un cucciato, ti remano. Bisogna avere apparati come questo che ho io. che magari non servono nulla, però uno mi ha messo addirittura l'antenna, me l'ha messo dopo che mi hanno sequestrato tutto, si è messo l'antenna vicino all'antenna CB mia del tetto. È logico che lo disturbo, se non mi cava l'antenna un cazzo ne vedi del televisore, Edu, e non venga qui mi ha chiuso un numero. Vabbè, ma questa è un'antenna vecchia, chissà quanti anni fa questa antenna era dalla casa dove abitava prima che me l'ha tolta lui, e me l'ha piazzata a fianco all'antenna del baracchino mio. Faccia così, se lui vuole vedere la televisione deve mettere molto lontano dall'antenna mia, e più deve mettere un'antenna nuova, non quella, quella lì la deve buttare via. A me quelli che sono addetti mi hanno detto che io posso parlare, se loro non vedono la televisione si devono cambiare l'antenna, perché se intervengono loro sono cavoli acidi, perché loro quando escono, escono per fare danno. Ma sta lì, ma l'ha piazzata sullo stesso palo dell'antenna tua, fammi campare. No, l'ha piazzata a 5, quanto sarà? 30 cm dal radiale dell'antenna mia, e si basa a fianco un blocco nella bocca. Ed è un'antenna di quelle di vecchio tipo, magari non fa massa, è marcia, è logico che gli entri. Però a me non me ne sbatte nulla. Se vengono a controllarli e li mettono la butta, io sono contenta che a me mi hanno buttato la butta e mi hanno esecutato tutto. Quindi anche loro devono pagare. Avanti, diciamo, mi hanno detto prima che interveniamo noi, glielo dica, mi ha detto, di chiamarci un tecnico e di farci fare l'antenna nuova. Perché se noi veniamo, interveniamo lì, qualcuno deve pagare. Ma delante mio hermano, se scusi l'isola della Sardinia, delante ve lo comprendito. Non è buona la propagazione, è buona quando arrivano belli furti, quando arrivano Santiago Novo, e allora sì che vi volevo avvisare. Basta arrivini, andane e tornani, io. Se arrivini bassi non fai nulla. Vabbè. Mi piace tutto di quel bip che c'è il coso di superiorità, c'hai con quel bip. Mi chiedo un punente, gli arusai. C'è barro da verde. Non arriva il bip, la più lunga è questa area di superiorità che c'è con questo bip, sì, un mare di armi. Ma mi sembra che te l'aveva detto, perché c'è lui vi laghi in quinto tu, come quello che avevo io in macchina, e fa via un bip di bastardo, proprio di quelli fastidiosi. Sì, alla gentita me l'aveva venuto, quello lì me l'aveva venduto, l'aveva appena comprato e ne ha fatto solo una modifica, ha tolto un filtro, l'ha usato per chiudere, digerire e incendiare, e io gli avevo chiesto se non lo perdeva, lei l'ha appena comprato, qua c'è ancora, se lo pago come l'hai pagato tu. E anzi, io gli ho fatto anche una modifica del tipo, però gliel'ho pagato con una modifica, e ce l'avevo ordinato, non l'avevo venuta a me. Un bel apparato era quello lì. Io ce l'avevo, c'avevo anche il Turner più 2 manuale, attaccato lì, quando ce l'avevo in macchina, e c'era una bomba di sapere. Anche io ce l'avevo, Turner più 2. La batteria da non so, lo so, però avevo anche quel microfono, cazzo, ma era una bomba, solo va via Rubippi che era un bel fastidioso, è logico che lo sapesse, si diceva cose. Io ne avevo preso uno, dicevi tu, da internet, ancora scartolato, mai aperto, lo sai a chi l'ho dato, aspetta. Lì dietro quei microfoni, poi non è che se ne trovavano molti. Io l'avevo imparato ma stessi e l'avevo abbinato a quello lì, a quel mi sembra che l'avevo anche dovuto modificare per attaccarlo. Il problema era la batteria ultimamente, non vedevano più le batterie attive della fonte della circolazione. E io gli stavo mettendo una batteria sottoalimentata, nel senso che invece che il tempo era da 6. Però andava lo stesso, andava bene lo stesso. E praticamente erano quelle batterie di macchina fotografica, andato da LUT, da fotografo e le comprate. Costava una barca di sciuti, però andavano bene. Bel microfono, c'era una radio, bellissimo. Lo so, diciamo, non ricordo. Poi con l'Hagin Tinto era un abbinamento, io c'avevo l'Hagin Tinto, e il coso del Tana e l'antenna, la Grand Prix, quella con le radio di 35 della Lega, che mi ha dato anche questa luce, e poi io ci avevo già di e quella era una bella bestia, non mai dico guai, va via. Sì, perché assorbiva un bel, quello lì che assorbiva un bel, allora si abbassava le luci paghissime, a qualcuno ricattava il puntatore, e avanti, che ti sentiamo, se ti sto rispondendo vuol dire che ti sento, vuol dire che tu facevi break quando noi stavamo parlando. Falcone è morto, non c'è più. Avanti già. Ma tu sono paura di questi. Vabbè là, salutoni a tutti, querete per me, che devo cucinare, se no non se magna. Ciao a tutti, ci sentiamo stasera. No, sono agli arresti domiciliari. Siamo agli arresti domiciliari. Avanti già. Ciao, compovole. Ciao, Lucarie. Ciao, Luca. Ciao, Concetta. Un bacio a te, Natalino, un colpo di paletta a testa. A te ti cudo un colpo di bradasso, gatto, una giumi, no, che... Non lo vedo. Bradasso è giù. Vabbè, là, che devo fare la carbonara e... No, carbonara. Sì, vabbè. Ciao, Luca. Scusate, sono impegnato, sto cambiando una LCD un iPhone, dai, le prendo fra un po'. Hola, hola, hola, c'è qualcuno, grazie. Già, io sto facendo un lavoro qua, non posso stare a radio, comunque sono in ascolto. Sì, vabbè, non fa niente. Sono qua io, però fra un po' devo ascoltare le famiglie. Ciao Antonio Riserva. Antonio, ci sei? Se sta poco fa lo si può buttare a te, vabbè. Ah, c'è un po' qua, dice non lasciamo bianco, lo stava chiamando per accanto, io non ho gente già nessuno. Poi, è vicino a te, se non l'hai sentito tu. No, io ce l'ho andato a aprire la porta e dovevano dire più cose. Non ti da dietro, ti devo fare il tuo, dai, per lui. Entra, decido. E ora lo siamo già medi, e non rispondo. Vabbè. Dai, io domando, in quelli ci devo andare ai fornelli. Ok, ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao, ciao. Gianni, avanti. Con chi lo vuoi parlare? Riserva, tu sì. Stavo per andare a chi l'ha visto, grazie, se volevo parlare, e ti dice Bucci. Anto, ascolta, ti volevo chiedere una cosa, ho un amico che ha un Galaxy, che lo deve riparare, tu li ripari ancora? No, è Saturnecco, è quello grande, quello stazione base. Praticamente non li sta uscendo di radio, deve essere lo stadio microfonico sicuramente, la parte microfonica. Non so se è modulatore, non lo so. Sì, la ricezione ce l'ha, ce l'ha. Però non sente la... Praticamente deve essere il modulatore che parte sempre dalla gara. La parte microfonica. No, perché è entrato mio figlio a dirmi cosa e è dovuto volare un secondo, dai. E niente, ti stavo dicendo, mi ha chiesto se c'era qualcuno che lo poteva aggiustare, ho detto ma mi sa che non ci sia più nessuno. E non è che te l'ha aggiustato Antonio. Allora, a me me l'hanno aggiustato, aveva lo stesso difetto, mi hanno cambiato la resistenza. Una resistenza, una gazzata era, capito? La resistenza, ma non ho cambiato. E va alla grande. Sì, e le tensioni bisogna controllare. La roba lì. Modulatore forse non è, perché sennò magari la ricetta non avrebbe avuto, vabbè. Ehi, vabbè, Anto, vedi tu cosa fare, dai. Questi qui hanno sempre avuto questo difetto, che partono, io ne ho avuto 5. Parte sempre con la parte lì, infatti non bisogna usare mai amplificati perché sennò con questi apparecchi succede quel problema lì. L'aveva detto anche Vittorio di non usare amplificati perché ti facevano partire i modulatori, ho capito. Adesso io sto uscendo qui col garage col microfono normale, guarda come sta uscendo. Guarda adesso, meglio va, 1, 2, 3, prova. Mi ha detto che ballo di sovincisce con lui. E sentite tutto l'originale dell'apparato, non ce n'è amplificata. Aspetta un secondo, anche tu che mi sta rompendo, un secondo solo. Stavo dando istruzioni come farsi la barba, che ancora ha paura di farsi la barba. Marco, c'ha la barba lunga, capo, cresce un bel. Ehi, non è che non ce la sa fare, no? Adesso ne è cresciuta troppo lunga, ho detto come faccio a tagliarmela a raso proprio, perché non sapeva la cosa del rasoio, capito? La regolazione, ha pagato. Comunque è Antonello Diossi che stava cercando qualcuno per se ti interessa, io glielo dico, se no non lo so, perché non c'è più nessuno che li aggiusta. No, ma Fabrizio li fa per hobby e è anche bravo, però li fa per hobby, capito? Adesso è incasinato nero, non ne vuole più sapere di fare queste cose, c'ha un bel lavoro per lui da fare, quindi non lo voglio disturbare. Anto, Fabrizio la volta che gliel'ho dato da poco ci ha messo una sera per controllare tutte le tensioni. Quando ha trovato quello che l'ha cambiato, il petto non costa un cavolo e il problema è il tempo che ci vuole. Aspetta un secondo che c'è Franco California che ti sta cercando di sovramodulare ma non ci riesce. Avanti Franco California. Era sempre Santiago 3,5-4, dai, la radio è forte però. C'è anche tu in riserva, non lo sei, stava parlando, stavo cercando di sovrapposizionare, non stava parlando. Capo, Antonio, lì qui, non senti a Franco California? Ma esce in campagna, è a casa, diciamo, della compagna, dai. Dov'è la campagna a Franco? Al Prato Comunale. Al Prato Comunale, Antonio. No, sta uscendo con una antenna, con una punta nera messa sull'albero, cavolo, se l'ha messa pubblicamente, capito? La stazione bella ce l'aveva a casa sua, ma non va più nulla. Cosa vuole fare questo Franco, non ho capito, si vuole verificare tutto, oppure no? Fra, l'interrogativo l'hai sentito, può ripristinare tutto oppure no? Gava, gava, va bene. Gli altri spegni, dai, ho capito. Il Franco California, gaba. Positivo Cavarroce, qua, il numero 1, ordinatore Porto Ciotto. Che beh. Senti qua, i Santiago 3, sì, quasi fra, Radio 4. Sì. Te lo compri questo modulando, lo vuoi? Questo da un medivato, non non so quanti watt dà. Poi c'ha l'eco colt, c'ha 6 bande e poi fai gabba gabba. No, scherzo, non lo do. Cosa? Finché fa, andavo a guardare il mezzo qua, un comodo. E infatti. E beh, allora già. Risolto con Antonio. Cosa? Come cosa? È risolto con... per quanto riguarda l'apparecchio. No, non le sta più facendo, non le sta più facendo. Antonio, ci sei? Antonio, a voi ridere? Allora, voilà, persa l'antenna, tutto perfetto, poi monterò di fronte. Dopo due giorni mi richiama, so un attimo, poi ti spiego. Ah, beh dai, allora tu ci va puntata. Qua, qua. Ma il microfono amplificato ti ho dato io, non lo stai mettendo. Ah, le connessioni ti ha fatto. E lo stai alimentando con l'alimentazione interna? No, lo puoi fare l'alimentazione interna. Sì, questo è fatto, aveva fatto che prendeva la corrente dall'apparato. Il cabagnato. Andava in Franco. Cosa si è combinato? Tagliando erba a scavi. Mamma, la propagazione sta salendo, il Franco è sparito e sta salendo la propagazione. Attento compagnero de Vascucia, la Sardinia adelante. Attento mi hermano de Vascucia, l'isola de la Sardinia adelante per un comprendido. Operador Gianni Delta Romeo de la città de Sassari che ti super convializza. Antu, come più, già Gilles. Oh, Antonio non sta rispondendo, Antu. È una pazzia, tu vada di più. E chi tu in hai? Due piccioni hai. Allora, ti stavo dicendo, Antu. E guarda, piazzare questa antenna, lì, zona latte dolce, là. Tutto a posto, tre televisori, perfetto, più di 300 canali mi dava. Dopo due giorni mi richiama che non voleva più canali. Non sai perché? Non voleva Mediaset. Non lo trovo normale, sei di fronte a Monteoro, tu. Cosa ha fatto lui? Ha preso attaccato un amplificatore, praticamente in cucina, siccome questa casa ha tre piani, no? Ha attaccato l'amplificatore e mi ha bruciato il partitore d'antenna. L'amplificatore per amplificare il segnale, quello a corrente. No, è un ti posso dire, un alimentatore, Antu. Con gli ingressi di antenna, cioè lo spazio dell'antenna. Ha attaccato quello, me ne ha bruciato due, non uno, due. Sì, vabbè, mi sono sbagliato, l'alimentatore, sì, sì. E dice, no, non ho fatto niente, come no? Comunque, quello che gli ho dato io, il partitore d'antenna, è quello a vitti. Era perfetto, andava benissimo. Praticamente l'ho misurato con il test, da una parte non arriva niente. Allora cosa ho fatto? Ho fatto un ponte, l'ho provato e funziona, benissimo, perfetto. Il dietro non ho fatto nulla, ma scusa, non c'è bisogno, se c'è Monteoro di fronte, non c'è bisogno di mettere un amplificatore. Sì, sì, è un po' male di radio, Antubo. Sì, dimmi Antu, vai. No, qua sono le A3, no, qua sono le A3. No, no, e poi... Cioè, ma se io me ne sono andato, che abbiamo sintonizzato tre televisori con più di 300 canali e dopo mi chiede, dopo due giorni non vedo più niente. Infatti, sto strano, l'antenna l'ho guardata, poi l'antenna è stretta bene, basta un colpo di vento, se non è stretta male si gira. È stata bene quella fascette, io mi piazzo per i cosi, poi ho messo il burudù, abbiamo fatto qualche lavoretta assieme. E poi mi sono reso conto che era... Prima ha bruciato il suo, prima dall'inizio, perché le antenne erano vecchie, quello sì, il cavo era un po' messo male, sai, il cavo 15 anni c'era questo cavo, anche di più. Le antenne erano proprio messe male, anche se erano intere, cioè erano, non erano spezzate, ecco, erano molto ossidate dove c'è la parte elettrica, diciamo. E in più lui, quando ha attaccato questo alimentatore, ha bruciato anche l'altro partitore d'antenna, quello suo, poi gli ho messo il mio, anche quello mi ha bruciato, adesso sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo un T e collegato i fili. E allora, stavo usando l'alimentatore. E l'ho visto sì attaccato, ma lui mi ha detto che non l'ha attaccato. Va, lasciamo perdere, va. Se sì, un po' qua, ma giù va, dove ha fatto assai a me? Si muove la fama, non va, ma se la giova tu, adesso usi come ti è, no? Cioè, come se io metto un amplificatore, un alimentatore adesso a casa della mamma. Ma non esiste, va. Ma infatti poteva bruciare il gruppo. Ciao, Anto ai fornelli sono, dai, che mi servono aperto la pressione, qua la temo. E quindi non lasciano chiudere, stavo organizzando. Ciao, buongiorno, ben ascoltato. E lui, si è andato bene, perché può bruciare il gruppo. Io cosa ha fatto bene, lui è andato bene, cosa pensi tu, a chi l'hai attaccato? Vabbè, però tu sei il tecnico, devi controllare, hai capito, col cuore. Ma scusa, ma se mi ne sono andato, allora, avevo un problema, un altro problema ancora, nella presa di cucina, che è il piano di centrale, diciamo, che ha tre piani questa casa, praticamente lì in cucina c'era il cavo che usciva dalla presa, però era, come si dice, aggiunto con la isolante. Cosa ho fatto? Ho tagliato e ho messo un coso per aggiungere il cavo, l'ho fatto nuovo, perché lì vedeva pochi canali, quello gli ho messo quello, gli ho fatto la scansione, prendeva tutti, 300 in più, già da lì lo stesso, quello era un lavoro in più alla fine. Vabbè, comunque non l'ha fatto lui, perché io quando me ne sono andato che i canali erano tutti perfetti, da media, setterra e tutti i canali, tutti, ce l'hanno tutti, tutti, tutti. Poi cazzo, la prima linea, i giammi, non mi aggo nulla, allora ha attaccato l'alimentatore. Ma se sto impazzendo, io tu, ne approfitto, scusando il QSO, che non riesco a fare andare la smart TV con la linea wifi, ma metti flex, e mi dà non potresti essere connesso qui e là, invece sul wifi mi dà la connessione col cavetto USB. Ma non è che ci vuole il cavetto USB a cadino, segnale internet, invece nel telefono mi dà connesso il wifi internet. No, non l'ho messo, è l'unica prova, quella, però io l'ho provato solo col cavetto USB, lo attacco, capito? E invece non va, che non ci voglia quello MDHI, HD, HDMI, HI, io ho lo Smart TV di ultima generazione, da 50 pollici, ecco, diretto, il cavo diretto ci vuole, sicuramente colui, perché non mi dà la connessione wifi, mentre il computer con la connessione wifi funziona, cazzo, Smart TV non funziona, la mazza ne rivaria, non ci arriva il cavo diretto. Non ci arriva perché ne è salone, capito? Ho capito, bisogna dare la connessione quella diretta, beh. No, le modifico, se no è un casino, già sta funzionando bene il computer. No, vabbè, vedo un po', dai, di prendere qualche prolunga appena posso uscire e allungare il cavo, perché non ci arriva il cavo nel salone, capito? È passato nel battiscopa ed è interno nella sala radio e basta. Va bene, grazie dell'info. Il cambio per Gianni? Ecco, dove riprendo questi cavi? Da Fusaro? Ecco, perché quello che c'ho io non è a cavo elettrico, il wifi, non è a presa, è a connessione USB. Va bene, e dove ricompro questi cosi? Va bene, adesso metto in moto mia figlia, allora, e vediamo un po' se c'è qualcosa su Amazon. Va bene, grazie dell'info. Grazie Luca, sei con coma e tu non devi far toccare nulla a nessuno. Quando fai i lavori, metti la colla, capponi l'attac. Cosa pongo l'attac? Poi ho ripeto fatto a cacchio, va, ci può prendere. Vabbè, io ho fatto il prezzo per il lavoro che dovevo fare, poi si è aggiunta qualcosa in più e alla fine... vabbè, lasciamo perdere, ci ho preso qualcosina, ma alla fine già ci ho guadagnato lo stesso, non è che l'ho fatta gratis, no? E che poi c'era anche l'amplificatore, ma il miscelatore ha due uscite, infatti l'avevo preso a uno, ma lui la voleva a due perché una andava dall'altra camera, un casino, vabbè, comunque gliel'ho risolto, dai. Ci ha lanciato lui adesso a comprare il partitore sulla piazza lui, non è possibile andare altre volte, no. Se voglio che vada altre volte mi paga. Normale, se no chiamo Antonio mica fa gratis. Io quando me ne sono andato andava perfettamente bene. E infatti quando ho fatto l'impianto ho usato il partitore suo, ci tu boh, cazzo dove segnali, pochi canali da zia, molto strano. La cosa è un po' strana. Durante la piazza da segnale c'è perché c'è al 1000x1000 ed era il partito di sopra, era bruciato, infatti ne ho messo uno dei miei e mi ha cribato bruiso, per dire, no? Ma cosa fai lì a attaccare l'alimentatore che non serve a niente? Ehi vabbè, gente che fate di cosa a quello di scimmia. Ma tu, se c'è puoi migliorare in radio, io non ti sento, basso. Vero, è compresa la radio, vero? Sei bassissimo di radio, Antu. Prova? Adesso sì. Sicuramente 1000x1000. Cazzo, ma se devi fare stavo soffrendo per ascoltarti, perché alzavo il volume come parlava Gianni, mi crepava la reggi. Ma cazzo, adesso con il tuo mazzo lo disegni di dirlo. Sì, vabbè, comunque è ribasso anche, tanto che è ribasso il radio. Adesso va bene, dai. Un curio, Anto, mi si è rotto. Oggi non lo senti perché ha l'antenna piccola, Antonio. No, Antonio riserva. Sì, già c'è qualche giorno in frequenza. Vabbè, adesso è mollato anche lui, intanto entra. Come tutti, ovviamente. E vabbè, adesso io Anto mi sto dando a... come si chiama? A riparare TV. Ne ho preso uno da autoparco nuovo, mi l'ho provato, si va tutto a righe, mi sono procurato il pannello, le CD, una bombetta, nuovo nuovo. E allora, ciao, no, non è rotto, era tutto a righe, si vedeva. Ti ho sostituito da un altro, adesso è un bombo. Adesso funziona, finché il VAM lo usa tu. E allora, anche lei le sto riparando, dai. Solo quando mi fa il prezzo alla fine non accettano e non li porto così gratis. Ciao Eugenio, dai, buona carica. Anch'io sto andando via, dai, ci saluto tutti cordialmente. Ciao Antonio, ciao Luca. Sto chiudendo anch'io, dai, vado a mangiare. Ciao. Ciao Gianni, dai, ciao Eugenio, purtroppo Antonio non lo senti perché ha un'antenna piccola, capito? No, non sta parlando nessuno, sempre quell'antenna c'è, quella famosa antenna che è piazzata. No, basta costruirti una cosa, se lo glielo chiedo a Luca se la costruisce a me per giù, la Game Master, vabbè, non so, io qua c'è la casa della mamma, c'ho sempre la mantova. Adesso vediamo, a tempo buono, dopo di salire su e dare una controllatina, una pulita, cambiare il palo perché sono tutto arrugginito, mi sa che il suo palo la mano non passa più. Glielo compro magari un palo come Dio comanda, glielo sostituisco. No, non è zingato, la parte di sopra no. Beh, mi sa sono fottuto, mi sa che non riuscirò a smontarla neanche. Vabbè. Non c'ha tanti anni, non so, ci avrà 8 anni, boh, non lo so. Claro, quanti anni ha l'antenna? Ha 10 anni. Ascolta, poi Anto, da questo, ti volevo dire, da questo televisore, che ho recuperato il pannello, l'ho voluto mettere nel lato che è più recente, e in questo qua gli ho sostituito i LED, funziona, cioè funzionava. Cosa succede adesso? Accendo la spia, schiaccio il telecomando e lampeggia il coso. Lampeggia si riaccende, non parte più. Così butta in bianco. No, assolutamente. Quando sgancio il cavo dalla scheda del digitale, diciamo, la scheda dove attacchi l'antenna, si accendono i LED. E certo, così butta in bianco la tua. Cioè, non ho sbagliato nulla. Perché l'ho tenuto acceso per vedere se era a posto, cioè tutti i LED bianchi, belli, perfetti. Secondo me se c'è la scheda danneggiata. Comunque io, siccome ero riuscito a staccarne un LED da un'altra striscia, no? L'ho staccato col taglierino, l'ho tutto pulito bene, e poi perché l'ho proprio saldato, talmente piccolo, però cazzo, non ci sono riuscito a saldarglielo, un po' di fatica ci ho messo, però era giallo, stava a fanculo giù di. Tanto io l'ho staccato da un'altra striscia di LED, uguale, perché io mi sono costruito un tramite una batteria 3,7 con un circuitino da 24 volts, no? E me la accendo con quelli, me lo provo con quelli. Infatti tutti i LED che io ho provato, le strisce, l'ho acceso con questo coso qua. Invece l'altro non lo accendeva perché ce l'avevo bruciato. Sì, infatti ho fatto così, io Ponticello, Anto. Ne stacco quello bruciato e Ponticello. E vabbè, comunque non parte. Non so, secondo me la scheda è l'altra, perché l'alimentatore sembra a posto. Infatti ho misurato un diodo, pensavo fosse quello, ma niente, a posto, no. Ho misurato tutto, Anto. Non lo so, vabbè, tanto non mi interessa perché è una TV di 7 anni fa, perciò non è che mi interessi più di tanto. Vabbè, certo sì, certo, no, ci mancherebbe. Chi è l'esperto? Ma secondo un mio parere si è bruciata quella scheda là, la scheda video, diciamo, là. Anomalia non ce n'è nella scheda. Ah, vabbè, tu hai ragione, sei inchivabilità, ma poi ripeto, non mi interessa, era giusto così per sapere. Adesso le recupero le fiche LED, ce lo butto, tanto il pannello l'ho usato nell'altro, l'altro è a posto. a dirti una cosa dell'altro, l'ho aperto perché è ovvio, lo devo aprire per ripararlo, la scheda nuova ma fiammante, però non capisco di che anno è, sto cercando di che anno è il vostro televisore e non lo trovo. Tu Samsung Antu, aspetta, ho detto che è Samsung a LED, sì, però c'ha i LED, no, a pannello, messa di lungo verso in alto, da diciamo, no, solo su ce l'ha, la fissa lunga, perché se no ci vuole digitale nuovo, ci vuole digitale esterno, sì, la sto guardando adesso, ho fatto tutto, non è quello il problema, ecco, ma sarebbe il canale di prova, ma sai quale altro, è quello, quando tu lo accendi fa, non è a LED, ma stai scherzando, fidati che è a LED, l'ho smontato io, non è che, c'ha la fissa, non sono come i LED che c'hanno sopra il quel coso in plastica, ce li ha messi di sopra, cioè orizzontali, la striscia lunga, e l'ho aperto io, e sicuramente dunque sono LED quelli, aspetta un attimo per il telecomando che controllo come mi hai detto tu, no, a 30 c'è la 5, comunque è a LED, tanto te lo posso garantire, invece c'ho un Panasonic che ha la plasma, che sono un poco vecchio, tanto io ho questo qua, Panasonic, che lo stesso è un amore, funziona da Dio, avevo messo la scheda nuova d'alimentazione, che me l'avevano regalato, ho detto alla tipa, se lo vuoi riparare ci vuole 8, no, tieniglielo, allora, ho comprato la scheda, ma sono tenuto io, ma ti posso dire, non ha mai dato problemi, beh, a parte che è nuovo, poi non è di quelli grossi, leggermente, cioè, normale, diciamo, là. Anche questo qua pesa, vabbè che c'è il vetro davanti, è il vetro che pesa, vabbè, finché va, non va più, comunque, allora, questo qua, poi c'ho un LG, l'hanno regalato che praticamente l'ho fatto, un tipo ha bisticciato, non so, con la ragazza gli ha fatto il torto, non so, così ho capito, e gli ha dato un pugno e ha spaccato i cristalli liquidi, questo LG è un 37 pollici, mi sa che vabbè c'ha l'inverter, ha il plasma, perché sicuramente ha il plasma. E infatti lo sto ottenendo se riesco a procurare il pannello, ma alla fine non mi dimostro nulla a chi poi ci vuole digitale terrestre, cosa ho tenuto a fare. Poi c'ho un altro stesso, allora questo l'avevo riparato io, sempre il discorso dei LED, è durato poco, non ne avevo preso niente a questa ragazza che vabbè gli ho fatto un favore, gli ho rismontato, gli ho fatto di nuovo un lavoretto dei LED, tutta la parte, gli ho cambiati proprio la striscia dei LED. Apposta, perfetto, ripiazzo il pannello, si vede una riga verticale, mi sono accorto che c'è il flat poco danneggiato, ma non è dovuto da me, solo gli avrei danneggiato da prima, non credo che l'abbia danneggiato io questo flat, ma infatti non sono così sicuro di su che giù fatto, sto un bel attento a tu, non lo so, infatti io gli ho detto, passi pure, vabbè c'ha 2 anni questo televisore, è uno smart, è nuovo, così da, andante. Infatti in realtà se appena trovo un pannello, l'ho trovato il pannello su eBay, questo tipo vuole praticamente tipo 70 euro, a quanto ho capito però lui non accetta la restituzione, allora quelli della fianchi, strano però, aspetta, strano a tu, non mi dà l'anno di resetta, no, è quasi l'una, allora, il modello è, ho fatto la foto, allora il modello è UE Kitzweibu, sì, questo qua, Udine Empoli 32C4000, no, allora aspetta, controllo, io un po', perché sto telecomando, c'ho un po', infatti non me lo devo ordinare perché, cazzo è, allora qua, questo qua no, neanche, non si vede più tu, allora aspetta, allora sono entrato, dove cazzo devo andare, postazioni, allora sottotitolo sicurezza generale, come da, allora no, non c'è, allora dove cazzo è, può essere qua, no, sì, vabbè. Tanto finché va, non va più, vuol dire che lo compro. Allora, c'è un altro software, sono entrato. Versione corrente 2010, no. Allora, versione corrente 2004 può essere. 2010-8, no. Allora, sicuramente è 13-8-2010. c'è scritto qua 2010 8-13. Ah, 2010, non sapevo che era Lugos. Ma allora, niente, non lo serve. Ah, infatti, così farò io. Ah, tu, ripeto, io ne ho un altro piccolino da 22. Allora, ne ho due dalla mia ragazza, lo stesso, due Samsung. Allora, uno da 26 e l'altro è da 22 pollici. Quello c'è in cucina, c'è il pannello danneggiato, c'è una riga verticale. Chi me l'ha dato, l'ho preso per sistemarlo, no? Quando l'ho preso, l'ho visto, c'era la mano nel display, la mamma, ma si era schiacciato troppo, e quando sono andato a smontarlo, a ripiazzarlo, c'era questa macchina, infatti non sono manco ritirato, ma ho detto, tiralo tu, perché avevo chiesto 30 euro per sistemarlo. Praticamente ho cambiato, il condensatore è quello più grande che c'è dentro, era quello il problema. E sta sempre andando con questa riga, ma non è fastidiosa neanche. Se ci metti l'occhio si vede, eh? Ma infatti, no, pure il vostro così tanto. Adesso mi sa questo Panasonic che me lo posso dire. Ripeto, è nuovo. Ho venduto un Samsung lo stesso, al plasma, 100 euro, 40 pollici, ma abbastanza nuovo anche quello, eh. Se mi rivolta, ho detto tutti i televisori, ne posso curare a fianchi. Ma l'ho dato, me l'ho sistemato e me lo sono venduto. Adesso mi volevo vendere questo Panasonic, ma mi hanno offerto 100 euro, cosa dici? Funziona bene, io te lo faccio vendere io. Lo vuole Alessandro, un tipo. Boh, se me l'ha chiesto, non più di 100 euro. Allora mi si dispiace, tu, darlo questo qua, lo so. Come sa che faccio così, compro del coda all'esterno, poi viene giù, poi, si vedrà cosa ha fatto. Ah, di ultima generazione li ha pagati, cioè, sono. Che marca sono? Tanto, che marca sono queste TV che hai comprato? E cosa dici? Cosa mi dici? Sono buone. Vabbè. Ci hai comprato un motivo, non è che ti dimondezza, infatti, no, vabbè, ci lavora mio cugino all'autoparco, se in caso, ma tu vieni lui di tanto. Vabbè, ma tanto, alla fine non conviene più. Ma comunque io se lo trovo mi recupero le fiscialette, che magari mi capita, gliel'ha dato comunque, gli faccio una specie di modifica e gliel'ha dato come ho sempre fatto, adesso non sempre funziona, perché è mia cugina. La prima volta gli ho fatto quel lavoro che ho detto tu, gli ho fatto il ponticello e gli ho durato due mesi mi pare. Ma tu lui se cosa faccio? Lo butto questa TV? Dammela, la riparo. Non ne ho altri soldi da spendere, mi ha detto. Non ti preoccupare, gli ha adattato due strisce LED e grazie a Dio si prendendo. Mia cugina. Ah, e ogni tanto Nico Sanna. No, mio cugino c'è cazzo un bel degli anni lì. No, e ogni tanto lo mettono, lui è un camionista, cioè lui guida il camion grande. Sì, lo so, ogni tanto ti va di Lugani con Burgo. Beh, siamo amici tutti. Perché a mio cugino gli ho sistemato l'antenna, c'è l'antenna, oddio. Ma vedeva Mediaset in cucina, allora gli ho cambiato il cavo. Un bel pezzo di cavo, ti ho panna, se mi devi baga, ma stai scherzando, poi se mi c'è qualcosa vengo lì da te e si finisce lì, non c'è problema. Purtroppo adesso io questo qua lo sto tenendo per mio cugino, l'LG. Se riesco a trovare il pannello, bene, sotto un rampo. E anche ho fatto un po' di pulizia. È un bel po', eh. Ci ho buttato qualche anche monitor di quelli piatti, eh. Prima di lui tanto cosa. Bah. Ce l'ho qualche monitor, se mi capita di riparare un PC fisso, c'ho il monitor, c'ho la tastiera, c'ho il mouse, lo faccio portare solo il case e basta. Comunque mi stanno capitando, allora aspetta, chi devo fare l'impianto centralizzato, però io quelli la vetta non ci ho mai messo mano, non mi fido. Se non sbaglio mi hanno chiesto anche la fattura. Infatti, se dovesse capitare, me ne stavo capitando a me, ma la rifiuto, cosa posso? Non posso. Se tu sei disponibile, si va e si fa. Se hai disponibilità. Forse sei troppo impegnato o no? No, assolutamente. Allora, io tu. Vabbè, c'è gente che tramite amici, no? Come fai tu? Di fare un favore magari? Io sto prendendo 200 euro, le antenne le compro io, l'antenna e il cavo lo metto tu, io metto. Là costa un bel altro, dove mi hai mandato tu, costa un pacco di soldi lì. E là, adesso non mi ricordo come si chiama, quello che c'è vicino alla bandiera gialla. E non so come si chiama, quando fai il ponte, no? Allora poi giri a destra e sali, fai la salita lì. Da cosa? La fusata. Cosa posso? Non devo impedire nulla. Noi andiamo a comprare un'antenna che costa 100 euro, 80 euro, cosa mi guadagni da voi? Nulla. Certo, poi sono il cavo anche. Me lo metto tu. Comunque l'ho pagato. da pagare. E io il chilometro ne ho piazzato 3. 2 alla pedoce e 1 qua al monte. Però una l'ho dovuta mettere in terrazzo perché sul tetto gli avevano già piazzata, hanno messo una staffa e poi nella parte alta che c'era adesso, 40 cm circa dalla staffa che c'era giù all'altra staffa non ci stava l'altra, gli hanno legato con una corda e infatti la nave che si è capotata. No, infatti io sono andato e gli ho parlato chiaro, gli ho detto no, io per quella cifra io non te la piazzo. Ma no, io voglio tot. E poi mi hanno procurato altri lavori e allora qualcosa di male gliel'ho fatta, tu, capito. Certo, però ripeto, questa qua la volevo sul tetto, ma sul tetto non si può. Cioè poi la spesa era, ci volevo qualche soldino in più. Ho detto, ma non ne ho, e allora te la metto in terrazzo. E infatti da poco mi ha chiamato, siccome c'è la stufa aperta vicino, no? E la stufa gli ha fatto un po' nera, ma non gli fa nulla. E lo so, infatti io ripeto, li ho messa lì in terrazzo e va benissimo, vede tutti i canali. Prima non vedevo, non c'aveva un canale. L'antenna è capottata proprio coricata in terra, come fa a prendere? Poi il cavo era tutto ossidato, mi c'era tutto pieno d'acqua. E cosa, più di gusto non può di qua. Alla fine così, i prezzi sono quelli, non ve la mostro in debata, non ti preoccupare. Comunque ce ne sono tanti che vogliono fatto avanti, mi sa che non li posso più, tanto me la fatti tutta. Non interessa, non li posso più e boh, voglio la fattura. Se tu sei disposto gliela fai tu, se no io no, assolutamente. Perché praticamente se la pagano dai soldi del condominio. Lo so, ma alla fine no. È come nel TV lo stesso, tu. Per quanto riguarda che si bruciano i led, perché si bruciano i led, lo sai benissimo, si spegne, si sente, no? Glielo ripari dopo una settimana, un mese, te ne torna e sei nuovo rotto. È tempo perso, l'unica è comprare la striscia, cambiargliela tutta così non ha problemi. Però i prezzi non lo accettano, non accettano i prezzi, tutto che tu gli fai 30 euro per dire, no, per ripararglielo, e dopo 3 giorni ti rompono dopo le balle. C'è ragione, eppure tu hai ragione, e vabbè, comunque alla fine non conviene, tanto no, adesso, guarda, no, perché poi troppo le balle, adesso questa qua lo stesso, poi glielo avevo messo in terrazzo, dice che il fumo, non so, cioè, sta già rompendo le balle, la prima volta mi ha rotto le balle perché ballava troppo. Tu conta che gli ho messo tre, nel terrazzo la ringhia, gli ho messo tre staffe per tenerla bella ferma e dice che parla la punta, che cosa ti posso fare? Allora, poi gli ho legata il tubo della staffa a pellet con un pezzo di fil di ferro. Cazzo, allucinante, va. Adesso le sta facendo nera. Vabbè. No, ma non li posso più, me la fotti più nulla. Non mi interessa. Tanto non pagano, non gli chiedi la cifra e ti poi... ti tirano il prezzo, non ci sono questi, capito? Quella è la paura, loro dicono io ho speso, quella è la paura tu, purtroppo è così, adesso tipo questo qua lo stesso, cioè, mi hanno messo lui, io me ne sono andato che era perfetta, si vedeva tutto, cioè oltre, io qua a casa mia ne prendo 270, lui oltre 300, mai visti, giuro, mai visti oltre 300 canali, e poi se fai danno tu, non io devo urtare andetorra, comunque non l'ha fatto lui, non una volta, due volte. Tu, sono andato e c'era l'alimentatore attaccato e dice che lui l'ha attaccato perché non vedeva niente. E vabbè, lui va, ma fate se la migliore in culo, non mi interessa più. Non mi interessa, tanto alla fine, cioè, se uno va, poi il casino è quello, come hai detto tu, mani, li fai impianto, cazzo, dopo un mese ti cercano perché, soprattutto quelli, come si dice, quelli amplificati, no, in un palazzo per dire, faccio un esempio, non vedi uno, non vedi tutti, e chi è un problema? vedi un po'. Vabbè, l'antenna è cambiato tutto. Sì, guarda, stamattina sono cambiato un LCD, un iPhone, 40 euro pulito. Adesso c'ho un altro telefono, un A5, vabbè, lì faccio un favore, da 30 euro da lì sto guadagnando, puliti. Adesso dove va? A Santa Ragna, adesso se ne andrò a Marigali di là, perché non anticipo più. Niente, comunque sta mettendo un LCD originale, se voglio un buon Google originale, tanto perché trovate se la, c'è la marca, insomma, il nome del display, diciamo, in alto, no? Anche se non è di marca, però questo qua è originale, lo sto mettendo io. Se no, il buon Google di Ghissi, lo pago una cazzata e ci guadagno molto molto di più, ma in verità sia onesto, tanto, perché poi generalmente riballe, perché fa così e si vede male, invece l'originale, sai che l'originale, i colori sono belli, e la luminosità idem, non sbagli. Motorola, qual è a tubo? Qual è? Allora, Motorola, aspetta, come devo dire che... No, non lo conosco. Beh, non c'è l'LCD, non lo vedo. Il cazzo costa una cazzata, 20... allora, 21 euro, allora, aspetta, Motorola è 4 Plus, costa 21 euro e 16, sì sì, per Motorola, Moto è 4 Plus, allora, potrebbe essere il B6, aspetta, allora, ok, sì, ma ce lo trovi, tanto c'è più tutto, tanto non è vecchio vecchio. Allora, ma tu vuoi? Ah, allora, in Cina costa 15 euro. Cazzo, il gommalo in Italia costa, aspetta, in Italia costa 50 euro. Dalla Cina costa poco, il suo è bei però, eh. Che colore è, nero? Allora, Stati Uniti costa 23,64 più 12,67. Vediamo un po', per tutta la Cina, tanto come ordinare, ci metto un bel po', ci metto. Sì, tanto la colla già ce l'ho, c'ho quella colla di lusso, che c'ha tipo un ago di siringa, che esce fine fine, è un buon modo la colla. Ecco, cosa aggazzato, costa dalla Cina 15 euro. E ci qua fallo 16, no vabbè, ci sono dei negati, fallo 18 euro ti costa, da. Compreso di, vabbè, esperienza non ce n'è qua, esperienza è gratuita. Vediamo un po' quanto ci metterà a rifare. Adesso me ne vado anche a mangiare, tanto se ci sei stasera, non ho deciso quali arresti domiciliari. Allora, aspetta. Tanto questo qua è un grosso venditore, praticamente arriva, allora, consegna stimata, 8 aprile, martedì 9 giugno. Si può anche fare, Anto? Ci sentiamo, ci vediamo, o mi fai la ricarica alla posta te e si ordina, non c'è problema. Bene, ci aggiorniamo stasera, ci sento, dai, altrettanto, ciao.